Sono dunque di ritorno da questa vera e propria debacle, ecatombe, Waterloo tecnologica che ho subito. Provate a immaginarvi una persona che lavora tutto il tempo con il computer e che dall'oggi al domani si ritrova senza il suo computer portatile, senza lo Psion che rappresenta l'alter ego in condizioni di mobilità, e che così come dessert di questa catastrofe subisce anche lo shock di vedere la propria telecamera riversa a terra, la propria telecamera DV appena acquistata. Torno dalle vacanze e tutti e tre questi oggetti, che sono quelli che uso di più, sono inservibili, e solo adesso mi sto riprendendo. Il portatile ha ripreso la sua efficienza. Sto registrando questo pendo delirio proprio dal computer portatile. Lo Psion in realtà non è morto, ma è soltanto cieco, nel senso che c'è un problema con il display, ma potrà anche lui essere recuperato, e la telecamera funziona egregiamente. Devo dire che, come direbbe Doppia Fila, è stato una serie di colpi, un 1-2 che avrebbe steso un puro sangue pezzato di 4 anni, e dal quale veramente mi sto riprendendo a stento, anche perché è coinciso anche con lo stress da rientro, che quest'anno è stato particolarmente pesante, perché significava non solo la fine della vacanza e la ripresa del lavoro, ma soprattutto la fine di una settimana in cui la pupa veniva guardata anche da qualcun altro. Devo dire che la botta peggiore l'ho presa per lo Psion, perché a differenza del computer, con lo Psion c'è un legame quasi sentimentale. Questo piccolo oggetto, un prodigio, che ha cominciato ad offrire 6-7 anni fa tutte le funzionalità che oggi offrono i moderni smartphone, con molto più rumore di marketing intorno. E un prodigio tecnologico, dicevo, che sembrava sfuggire alla regola della domanda addomesticata, cioè la regola secondo cui la tecnologia avanza al ritmo della domanda, e se la domanda può essere rallentata in modo da centellinare l'avanzamento della tecnologia, ecco che la tecnologia arretra. Invece lo Psion ha offerto tutto fin dall'inizio, prima ancora che si parlasse di OMTS, si parlasse di messaggeria unificata e così via. I dati sono salvi, però in questi pochi giorni di vuoto tecnologico ho subito un danno psicologico a mia volta, perché quasi una perdita di personalità non poter scrivere, non poter postare sul blog, e ho subito una sorta di fiatone digitale. La mia prima reazione, quella più istintiva, ormonale, è stata quella di trascrivere a penna tutte le password e tutti i login di tutti i servizi, account, riposte e così via ai quali sono abbonato. Mi sono reso conto che si tratta di una ventina di password, di una ventina di login. In tutto questo c'è qualcosa che non va, e qualcosa di sinistramente simile al fatto che sul tavolo di casa mia ci sono 10 telecomandi invece che uno solo. E queste sono manifestazioni patologiche del fatto di essere una via di mezzo tra un gullible moron, che è un segmento di mercato ben identificato, cioè il deficiente che può essere ingannato dal marketing, e l'early adopter, che in realtà è quello che è disposto a spendere di più pur di essere il primo ad avere qualcosa di nuovo, e che deve pagare uno scotto sia in termini di prezzo sia in termini di funzionalità del prodotto, perché i prodotti vengono rilasciati con alcuni difetti quando vengono immessi sul mercato la prima volta, proprio perché l'early adopter si bei del fatto di aver trovato dei difetti, cioè è stupido due volte. E in realtà non è un early adopter, ma è un beta tester, però dovrebbe essere pagato per fare questo lavoro, in realtà è lui che paga due volte. Torno nella penisola dopo questa breve vacanza insulare e ritrovo il vecchio che avanza, ritrovo il concorso di Miss Italia, ritrovo Fini costretto a moderare Berlusconi per i suoi giudizi sul fascismo, su Mussolini, e ritrovo praticamente algidi e indelebili Carraro e Galliani, che continuano a governare la sesta industria del paese come se non fosse successo nulla.